Ivan Talarico, ben ritrovato. Ben trovato Federico, grazie. Con te per parlare del tuo nuovo impegno, perché sarai in scena insieme a Luca Ruocco, che fate il doppio senso unico insieme. Il successo non è successo. Al nuovo Cinema Palazzo a Roma il 2 marzo. Allora, Ivan, intanto raccontiamo a chi ci ascolta brevemente l'esperienza doppio senso unico. Doppio Senso Unico è una compagnia che abbiamo formato qui a Roma, abbiamo iniziato a fare spettacoli nel 2005, l'ultimo spettacolo prodotto prima di questo è del 2015, abbiamo lavorato spesso al Teatro dell'Orologio muovendoci su un filo sottile che andava tra l'inquietudine e lo humor. E l'ultima trilogia che abbiamo fatto, che è stata rappresentata appunto al Teatro dell'Orologio, si chiamava Niente di Nuovo Sotto il Suolo. Sì. E questo nuovo lavoro? Questo nuovo lavoro è un reading, nel senso che abbiamo abbassato di molto le pretese, abbiamo alleggerito tutto l'impianto che già non era molto grosso degli spettacoli e abbiamo fatto un reading. Abbiamo deciso di lavorare proprio sulla costruzione di una storia, per la prima volta di mettere una storia sviluppata in maniera narrativa, anche se con aperture e divagazioni, e di lasciare quasi solo quella. Ci sarà solo un contrappunto musicale al pianoforte e le nostre due voci che raccontano. Ok, senti, come nasce tutto? Nasce ovviamente come in tutti gli altri nostri lavori da una strana commistione tra la vita e il teatro, nel senso che poi dopo l'esperienza al Teatro dell'Orologio, in cui abbiamo fatto dei debutti anche molto belli, molto entusiasmanti, con una buona risposta di pubblico, e la difficoltà nel circuitare, nel muoversi, nel mandare in giro queste nostre cose, abbiamo iniziato a scrivere degli atti unici che dovevano essere semplicemente letti, e piano piano è venuta fuori questa storia che all'inizio si chiamava Diario della Gavetta, in cui noi riflettevamo un po' su questa eterna gavetta del teatro off, che poi è diventata Il successo non è successo, un po' parodia anche di quello che succede a molti di noi e a noi stessi. Senti, dato che si parla di un unicum narrativo, ci racconti brevemente la storia, di cosa si tratta? La storia è abbastanza semplice. Luca è un ragazzo, è il figlio di un commercialista che vorrebbe continuare il mestiere di famiglia e fare il commercialista, ma suo padre gli impone di fare l'attore. Ok. Un po' il contrario di quello che di solito avviene. Sì. All'inizio lui non vuole, ma presto scopre di avere talento e inizia questa lunga gavetta nel mondo dello spettacolo con tutti gli annessi e connessi che sono un po' anche quelli che attraversiamo e abbiamo attraversato noi. Senti, al palazzo si tratta di un debutto e poi che farete? Questa è la domanda classica che ci riportiamo anche dal Teatro dell'Orologio, però essendo di impianto molto più leggero e in questo caso abbiamo lavorato anche più su un certo tipo di comicità e ironia, lasciando perdere il lato inquietante, cercando anche nuove strade di espressione, probabilmente ce ne andremo in giro portandolo per vari eventi. Faremo ancora delle cose a Roma e cercheremo di girare anche per l'Italia. Senti, nel frattempo, insieme all'esperienza doppio senso unico, tu ti sei dato un po' di più al cantautorato e Luca invece. E Luca invece sta intraprendendo la carriera di autore di fumetti e di giornalista cinematografico, scrive molto di cinema in diverse redazioni e sta collaborando con Bugs Comics, scrive dei fumetti e fa parte anche del team. Quindi comunque abbiamo delle nostre vite private e delle nostre vite artistiche anche separate. Ok. Senti, in chiusura lasciamo tutti i riferimenti ricordando anche la data. Allora, venerdì 2 marzo 2018 alle 21:30 al nuovo Cinema Palazzo, Roma, San Lorenzo, che è questo me lo dovresti ricordare tu perché io al momento non lo so. È la Piazza dei Sanniti. Piazza dei Sanniti, era facile. Ci siamo sempre e ce lo dimentichiamo spesso. In fondo a Via dei Volsci. Esatto, vicino a dove state voi, Il diciamo. successo non è successo. Benissimo. Ivan, un abbraccio e ci si vede a teatro. Un abbraccio, Federico, grazie mille, a presto. Ciao. Ciao.